Eccoci ritornati amici di Web Radio Luzzi. Allora, ora abbiamo una cosa seria, fra virgolette, sulla nostra, sulle nostre, sui nostri palinsesti, grazie. Perché qui ha parlato un nano, io sono un po' più cresciutella, quindi non ci arrivavo, vabbè, a prescindere da questo. Abbiamo una cosa seria, dopo tutte queste cazzate c'è chi vuole dare dei consigli medici, diciamo, su a voi ascoltatori, quindi abbiamo Medicina 133. Benvenuti cari amici malatosi e mortacini a questa nuova puntata del vostro Luciano preferito. Che è il Gabue? No, sono io, Luciano. E batte, pensa comincia a ti scavare la fossa. Carlo Lorenzo è funebre, no, Massimo Uzzi ha detto che quando viene lo pranzo buono. Iniziamo subito a parlare dei più giovani, tralasciamo questo registro un po' così. Voi allegri e scanzonati settantenni, quali sono i vostri più gravi problemi medici? Dalle mail che ci arrivano in redazione risulta che avete un grosso problema con i vostri trigliceridi e non riuscite a fare pace con il colesterolo. È giunto il momento di cambiarvi dieta prima che nelle vostre arterie si scateni un rave e parti con destinazione oltretomba. Avete evitato i fritti? Avete evitato i dolci? Nonostante tutto nessun risultato? Bene, è ora di darci dentro fritture e dolci. A manetta. Troverete così la soluzione definitiva, e lo sottolineo, ai vostri problemi. Come dice un antico proverbio, tutte le vie portano a due Massimuzzo e vi fa un servizio con un sorriso. Ora un appello accorato ai genitori. Basta mail riguardante l'abbassamento della vista dei vostri figli. Non ordinate più il postal market e forse avrete risolto il vostro problema. Se dovesse persistere, staccate la presa dal modem. Arrivederci dal vostro Luciano Nazionale. Chi? Luciano rispoli. Oh, tu mi ci fai capire a me. Non può pure Gabue, non può pure rispoli. Ma no, sono sempre io, Luciano Under. Scusate, è ora di tornare nel sarcofago, è troppo tardi.